Il lavoro educativo di WeWorld nasce, si sviluppa nelle periferie. Noi siamo attualmente presenti in collaborazione con una rete di realtà che si occupano di educazione in 7 città italiane e attraverso il programma Frequenza 200, per cui siamo presenti a Milano, ad Aversa, a Cagliari, Catania, Roma. Tutti questi contesti sono segnati da diseguaglianze profonde e hanno un po' un elemento in comune, sono periferie impoverite da decenni di politiche che le hanno appunto impoverite dal punto di vista economico, relazionale, culturale, sociale ed ambientale. Questi sono appunto i territori in cui noi lavoriamo. Il nostro approccio si fonda su un principio chiave, che è quello di ascoltare le persone giovani, e questo nei contesti periferici significa prima di tutto riconoscere le storie e le biografie delle ragazze e dei ragazzi che troppo spesso vengono letti e lette solo attraverso etichette, numeri, problemi. Quindi i nostri interventi cercano in maniera intenzionale di decostruire questa narrazione delle persone adolescenti come mancanti di un'adolescenza che è spesso descritta come problematica o deviante, perché questo tipo di narrazione nei contesti periferici contribuisce a legittimare forme strutturali di razzismo e classismo, spostando l'attenzione da cause sistemiche a responsabilità poi individuali dei ragazzi e delle ragazze. Sì, infatti appunto anche prima con Martina facevamo questo ragionamento in merito anche a recenti casi di cronaca che hanno provocato discussioni, ad esempio sui metal detector nelle scuole, e quindi si parla sempre di militarizzazione, di approcci securitari e mai invece di che cosa, quali sono le cause della sofferenza di questi ragazzi. Esatto, e infatti chi lavora nelle periferie sa che la condizione di partenza dei ragazzi e delle ragazze non sono uguali per tutti e tutti. E viviamo in un momento storico in cui le diseguaglianze sociali sono sempre più marcate, quindi il nostro lavoro dal punto di vista educativo è proprio mirare a redistribuire le opportunità, proprio perché le opportunità non sono mai uguali per tutte, rispetto appunto a quali sono le cause di malessere dei ragazzi e delle ragazze, e in primis non avere degli spazi relazionali in cui poter lavorare sulle proprie biografie, sulle relazioni, sui conflitti che anche attraversano la vita quotidiana, perché questa dimensione è ancora oggi esclusa, ad esempio da un contesto come quello scolastico, in cui persiste questa idea che la vita privata, le emozioni, le relazioni non debbano intralciare la didattica, e molto spesso le figure adulte, i docenti, che sono comunque sovraccarichi e isolati, tendono a percepirsi fuori, no, da questa rete di relazioni. Quando emergono difficoltà, lo sguardo si concentra molto spesso sul singolo caso, su quello che non va, invece di riflettere sulle dinamiche del gruppo classe, sul contesto territoriale di provenienza, e quindi la responsabilità viene sempre spostata sul ragazzo, sulla ragazza, sulla famiglia o sul background culturale. Quindi, a fronte anche di questi alcuni bisogni che hai citato, insomma, di questi ragazzi, quale potrebbe essere un modo per rispondere? Ma allora, la nostra risposta appunto è quello di ascoltiamo i ragazzi e le ragazze, mettiamoli nella posizione di avere potere, quindi potere di dire questa attività non mi rappresenta, potere di dire vorrei fare questo o quest'altro, anche semplicemente potere di prendersi del tempo per socializzare, per costruire delle relazioni, per capire anche come si sta, perché il lavoro, ecco, quello che diciamo è che dobbiamo mettere i ragazzi e le ragazze nella condizione di poter decidere, perché sono stati esclusi e sono esclusi dagli spazi decisionali.